Allora, il professor Goglia dell'Università di Padova ha la parola. Scusami, ti ho portato via. Per prima cosa volevo dire che la relazione ha un titolo lievemente cambiato ed è L'Africa dell'Italia, la politica indigena del colonialismo dell'Italia liberale. E vi avverto subito che il taglio e il punto di vista di quelle che saranno le mie osservazioni sono quelle non di uno storico contemporaneo, ma di uno storico dell'Africa. Apparentemente, io spero, mi illudo che sia così, può apparire frammentaria, ma perché è preceduta da una serie di considerazioni generali che comunque mi pareva opportuno in questa sede di fare. Il colonialismo italiano e quello tedesco, nelle linee generali, sono fenomeni che hanno alcune caratteristiche comuni. E io le vedrei in questo senso, come già era stato anche detto, per esempio, questa mattina dalla relazione del professor Schieder, nella relazione del professor Mommsen. Entrambi questi fenomeni sono prodotti di stati europei che arrivano nello stesso periodo, che giungono nello stesso periodo all'unità nazionale. E questa mi riallaccio ad un'osservazione che faceva anche stamattina il professor Schieder, entrambi iniziano la loro corsa espansionistica senza avere nessuna eredità dal passato, nel senso che nessuno degli stati preunitari precedenti allo Stato nazionale porta, per così dire, in dote allo Stato unitario una colonia. Entrambi, alla fine del secolo scorso, nella seconda metà del secolo scorso, dispongono di, se così possiamo dire, un patrimonio di viaggiatori, di esploratori, di studiosi, di missionari che hanno conosciuto l'Africa, che studiano l'Africa, che hanno fatto relazioni e scoperte importanti sull'Africa. E secondo me finisce qui il parallelo. Tranne che per ovvi comuni problemi nell'acquisto e nella conquista e in certi aspetti dell'amministrazione delle colonie, credo che la storia dei due fenomeni sia profondamente diversa. E io penso che questa diversità va ricercata nella differenza, nella diversità della società tedesca e della società italiana dell'epoca. E quindi con tutte le sue implicazioni, ovviamente. E in definitiva dal peso internazionale diverso dei due paesi, del Regno d'Italia e dell'Impero tedesco. Credo anche che sia ancora diverso il grado di coinvolgimento che i rispettivi paesi hanno avuto nelle rispettive vicende coloniali. E veniamo al colonialismo nella storia d'Italia. Il colonialismo nell'Italia unitaria dal 1861 al 1943, se noi ben vediamo, ha un posto importante. Sia come fatto nazionale italiano, che riguarda cioè le vicende della società italiana, sia in alcuni momenti come una pedina dello scacchiere internazionale, e poi vedremo anche per l'Africa. Infatti, e qui mi riallaccio all'osservazione che faceva questa mattina l'amico Ghisalberti, quando ricordava che generazioni di italiani e una grande quantità numerica di italiani sono stati coinvolti nelle operazioni, nella vicenda coloniale del nostro paese. E qui, anche se noi ci fermiamo ovviamente, teniamo maggiormente presente l'età liberale, dico però, ai fini del discorso che io sto facendo dell'importanza complessiva del fenomeno coloniale all'interno della storia d'Italia, mi riferisco ovviamente fino al termine di questo processo, cioè fino a quando ci fu la conquista britannica della Libia e il ritiro delle truppe dell'asse in Tunisia. E questo grande numero di italiani che viene direttamente coinvolto, soprattutto, diciamo, in occasione delle grandi operazioni militari che ci furono, e soprattutto dal 1911. Non solo, ma se noi andiamo a vedere, l'Italia ha combattuto in Africa le due più grandi guerre coloniali fino alla Seconda Guerra Mondiale. Voglio cioè, non è considerato in questa mia riflessione, la guerra di liberazione d'Algeria e la guerra coloniale dei francesi in Algeria degli anni 54-62, che pure ebbe ovviamente proporzioni enormi. La guerra italo-turca del 1911-12 e quella d'Etiopia del 35-36 si collocano anche in momenti cruciali della vicenda internazionale. Possiamo dire all'antevigilia delle due grandi conflagrazioni mondiali. Eppure, la storia dell'Italia contemporanea, le storie dell'Italia contemporanea, le storie generali d'Italia, dell'Italia unita, non dedicano lo spazio dovuto al fenomeno coloniale e soprattutto ne ignorano l'aspetto africano. Ci sono eccezioni parziali, ma in generale vengono menzionati solo taluni fatti di politica estera e di guerra connessi alla vicenda coloniale. In realtà, così ci si è abituati, e qui non dico soltanto, diciamo, l'opinione delle persone di media cultura, ma l'opinione anche di tanti storici. Qui non vorrei raccontare, anche senza fare nomi, una vicenda personale, però se voi credete, mi credete, anche recentemente accade così. Cioè ci siamo abituati a concepire la storia coloniale come una proiezione, come un'appendice, una mera appendice della politica estera e della politica militare. A mio avviso è questo un modo di vedere riduttivo e fuorviante che non investe la specificità del colonialismo, che finisce per trascurare la dominazione coloniale e i paesi e i popoli africani cui questa era diretta. L'espansione italiana in Africa, per la storia del continente africano, segna, insieme all'azione del colonialismo britannico e tedesco, il tramonto del potere del sultanato omano di Zanzibar, sulle coste del potere, dell'influenza, della dominazione di questo sultanato, sulle coste africane, nell'immediato entroterra delle coste dell'Oceano Indiano. La fine delle rivendicazioni ottomane sulle coste del Mar Rosso e della presenza egiziana a Massawa. Ed è anche della minaccia nei confronti dell'impero etiopico, ingranditosi e potenziatosi sotto il regno di Menelik II. In Africa settentrionale segnò la fine della presenza imperiale ottomana in quest'area, con la conquista delle province della Cirenaica e della Tripolitania. Ma forse l'evento più importante per la storia dell'Africa fu la sconfitta italiana ad Adua, il 1 marzo del 1896. Non solo con quella vittoria l'imperatore Menelik II riuscì a fermare l'invasione italiana e così la probabile fine del suo impero, ma riuscì a garantire ancora 40 anni di indipendenza al suo Stato. E questo accadeva nel periodo in cui tutta l'Africa era sotto dominazione coloniale europea o si accingeva ad esserlo. Quindi è, da un punto di vista della storia africana, un evento eccezionale. Qual è l'interesse dello storico dell'Africa per il colonialismo? È un interesse per la sua specificità e quindi, entro certi limiti, per la sua autonomia, se così possiamo dire. L'accento è quindi posto sulla cultura coloniale, intesa nella sua accezione più vasta, in tutta quella che è l'azione coloniale in Africa, nei modi della conquista e dell'acquisto delle terre africane, dell'organizzazione del dominio, dell'ordine coloniale sui popoli soggetti, dell'azione e delle reazioni dei popoli africani nei confronti della dominazione europea. E qui desidero affermare che i popoli africani sotto dominazione coloniale non uscirono dalla storia. Essi, al contrario, continuarono ad agire, ad essere, a partecipare alla storia. Il dominio europeo sui popoli africani non fu una pietra tombale sul continente, sulla storia del continente, per trasformarla semplicemente in altra storia o in storia di altri. Certo, questo è anche avvenuto. Cioè, così è stato visto, ma da parte colonialista. Da parte colonialista fino al 1927-29, adesso non ricordo la data precisa, un autore britannico scriveva: la storia dell'Africa inizia là dove inizia la dominazione europea. Cioè, confermando qui la vecchia idea cara ad Hegel, che l'Africa è un continente senza storia. Ma la realtà, studiando la realtà dell'Africa in età coloniale, ci si rende conto che la realtà è molto diversa, che l'Africa, che i popoli africani, sotto dominazione europea, hanno continuato in modi vari ad essere presenti, ad essere partecipi della storia. Indubbiamente il dominio europeo pose agli africani gravi problemi, gravi scelte. Spesso la violenza bellica sembrò spezzare la resistenza al colonialismo, ma furono episodi temporanei. Del resto, anche in termini temporali, tranne il caso portoghese e quello boero, il colonialismo è un episodio nella storia dell'Africa, un episodio che varia di durata da pochi decenni a quasi un secolo, nel caso dell'Algeria più di un secolo, ma insomma, pur trattandosi, e qui ritornerò su questo argomento alla fine, per cercare non di rispondere, perché non è facile rispondere al quesito che poneva questa mattina l'amico Ghisalberti quando diceva: ma l'Europa è riuscita attraverso l'impatto coloniale a portare l'Africa nella modernità? Io cercherò di dire qualcosa al riguardo, non di dare certamente una risposta. Quindi per questo aspetto l'impatto coloniale è di importanza fondamentale, non soltanto per i fatti di allora, ma per la storia di oggi. Quindi, pur episodio cruciale e importante, la dominazione coloniale europea africana è, nell'ambito della storia africana, un episodio, un periodo che viene per certi versi a spezzarne la storia, per certi versi a deviarla, per certi versi anche ad incontrarla in modo nuovo. Insomma, neppure attraversa tutta l'età contemporanea la presenza europea in Africa. Ora, gli africani reagirono e agirono variamente all'impatto coloniale con gli europei, con le armi, con il rifiuto. E il rifiuto ebbe aspetti solitamente di ritiro nell'ambito delle proprie tradizioni, di chiusura all'interno del proprio mondo, dei propri valori culturali tradizionali e anche di collaborazione. E anche qui questo è un episodio molto delicato, che è non, del quale non si poteva parlare negli anni 60. Cioè la vicenda degli africani che avevano collaborato con gli europei durante l'età coloniale veniva parificata, giusto per fare un paragone che ovviamente tutti possiamo ben capire e c'è vicino a tutte e due, italiani e tedeschi, ai capò dei lager del Terzo Reich. E le vicende poi, voglio dire, questo è comprensibile. All'indomani dell'indipendenza l'Africa cercava di recuperare la sua identità, cercava di valorizzare tutti quegli elementi che erano stati decisamente avversi, contrari alla presenza europea. E quindi ovviamente in quel momento non è che ci fosse poi una grande considerazione per questi uomini, per queste donne. Ma ecco, noi italiani, questa è una cosa che io conosco un po' meglio, non saprei dire per quanto riguarda la storia tedesca, ma noi italiani possiamo ben avere di questo un parallelo nella storiografia a ridosso della nostra rivoluzione nazionale, a ridosso del nostro risorgimento. Beh, quante esagerazioni, no? Contro gli avversari di quel nostro processo storico vittorioso. E beh, quindi io credo che lo stesso caso è quello dei... Vi faccio un esempio. Quando si parlava delle truppe coloniali indigene, e questi erano nella migliore dei casi paragonati a dei Doberman, cioè non avevano neppure una fisionomia umana. Erano semplicemente i feroci cani da guardia del padrone capitalista. Del pallone colonialista, pardon. Beh, cioè, qui c'è un lapsus. Non freudiano. Non freudiano, ma quasi. E, ecco. E, E ovviamente poi le ricerche, gli studi, una valutazione, come dire, più serena, che non soltanto, che direi è partita prima dai colleghi africani e poi è arrivata dagli africanisti, soprattutto americani ed europei, molto che alcuni ancora non hanno levato l'elmetto, come per esempio l'inglese Basil Davidson, insomma, giusto per fare un nome, ma insomma. Ecco, e quindi questo è, voglio dire, l'ambito in cui avviene la reazione africana alla presenza coloniale. Ora, ecco perché il mio interesse particolare come storico dell'Africa è quello per la società coloniale. Il ruolo che in questo hanno i sudditi africani e i vari tipi di reazione all'impatto coloniale. Un aspetto rivelatore, io credo, anzi penso che sia l'aspetto rivelatore per eccellenza della dominazione coloniale è quello della cosiddetta politica indigena, che è un termine nato in età coloniale e che tutti quanti i paesi coloniali denominavano nello stesso modo. Termine che indica quell'insieme di istituti, di leggi, di disposizioni, di azioni di governo che regolano la società coloniale per quanto riguarda la popolazione africana. Ora, attraverso l'esame della politica indigena è possibile ricostruire il modello coloniale, il grado di partecipazione o di autonomia degli africani nell'ambito coloniale. È anche possibile intravedere le prospettive di sviluppo che vengono considerate dal potere coloniale per le popolazioni africane. Ecco quindi l'interesse per questo aspetto della storia coloniale. Perché è questo anello comune, diciamo, anello di congiunzione tra la storia dell'Africa in età coloniale e la storia della dominazione europea in Africa. Ora, se noi andiamo a vedere l'esperienza italiana in età liberale, e qui dico subito che credo che in questo senso noi abbiamo un vantaggio sui colleghi tedeschi, perché dopo noi abbiamo avuto il fascismo e il fascismo ha elaborato una sua politica coloniale, non subito, attraverso vari stadi, e quindi noi abbiamo in un certo senso una possibilità storica di paragone tra il periodo dell'età liberale e il periodo fascista. Io personalmente ho cercato di studiare tutto il fenomeno coloniale italiano, come ricerche senz'altro, come esiti, diciamo, invece editoriali, essi sono stati per lo più sul versante fascista del fenomeno. Ma voglio subito dire che questa cesura c'è, questa differenza c'è. E uno degli aspetti che più mi aveva interessato era proprio quello, se possiamo così chiamarlo, delle relazioni interrazziali. E lì ho fatto un procedimento all'inverso, devo dire, e cioè ho cominciato a studiare prima il razzismo nel colonialismo fascista e poi sono andato a verificare che cosa c'era in quello dell'Italia liberale. Ed è questo un punto importante. Ora è chiaro che il rapporto coloniale è di per sé un rapporto soggetto-oggetto, dove il soggetto è la metropoli coloniale, quindi in Africa il governo coloniale e i rappresentanti di questo governo, e l'oggetto è la popolazione africana e il territorio. E quindi chiaramente un rapporto di dominio. E questo è fatto comune ai due periodi, indubbiamente. Ma qual è la prospettiva che viene data nel periodo liberale e poi in quello fascista all'evoluzione delle popolazioni coloniali? Lasciamo stare quello fascista di cui non parliamo. Vediamo invece questo in età liberale. Ora, se noi partiamo dall'Eritrea e dopo lo sbarco a Massawa dell'85 e via via l'allargamento e così via, quando ovviamente è fatto da militari e il comando non soltanto militare ma anche dell'amministrazione in mano ai militari, non credo che potesse essere altrimenti, ma via via che si allargano i possedimenti sulla costa e nell'entroterra, nei possedimenti del Mar Rosso, si congiunge con Assab e tutto il resto, appare chiaro che questo è concepito come un ponte, diciamo, verso l'Etiopia. Ora che ci sia l'idea del protettorato, l'idea della conquista, comunque del controllo dell'impero etiopico. Tralasciamo, come diceva quel giornalista all'inizio del suo articolo, i fatti sono noti e quindi non ne parliamo. Cioè diamo per scontato tutti i fatti. Voglio dire che durante, fino alla la guerra, conclusasi con Adwa, l'Eritrea è in un certo senso un po' sfasata, perché seppure si fanno tanti discorsi, si possono tentare tante strade, in realtà resta essenzialmente una sentinella armata pronta a dare il segno dell'allarme per in direzione dell'Etiopia. E quindi che cosa succede? Succede che, per esempio, i militari non vedono di buon occhio l'idea del barone Franchetti di colonizzazione italiana di alcune aree. L'esperimento lui lo tenta con 24-25 famiglie, è un esperimento fallimentare, dove una parte di responsabilità si può dare anche a certe reazioni forse eccessive da parte di alcune di queste famiglie, ma in realtà non c'è una volontà politica, e quindi con tutto quello che segue, affinché questo esperimento possa avere successo, affinché questo esperimento possa svilupparsi. Voglio anche dire che per un'impresa del genere ovviamente servivano capitali. Ecco, e questi capitali non sono stati mai, voglio dire, usati in questo periodo in misura necessaria per queste operazioni. Mentre poi noi vediamo che invece l'amministrazione militare poi di sprechi ne faceva, soprattutto sprechi di costruzioni, di cose, eccetera. Quindi, voglio dire, poi in fondo allo Stato italiano l'Eritrea costava. Però, come dire, aveva questa finalità. E quindi succede che uno degli aspetti fondamentali della politica indigena, che è quello dell'avvaloramento, che in età liberale ha un senso, quello della messa in valore, della valorizzazione dei territori, che è molto vicino a quanto venne teorizzato alcuni anni dopo dall'amministratore coloniale britannico Lord Lugar nel suo libro The Dual Mandate in British Tropical Africa, dove lui elabora la teoria, la dottrina del doppio mandato, che è, se voi volete, una versione realistica, con i piedi per terra, della missione di civiltà. E cioè, perché noi veniamo qui? Noi veniamo qui perché voi non siete da soli in grado, non avete le capacità tecniche, le conoscenze idonee a sviluppare potenziali ricchezze che voi avete. Noi veniamo qui e faremo questo, certamente nel nostro interesse, ma anche per sviluppare il vostro paese e per portarvi ad uno stadio più avanzato. No? Beh, questo, durante questo periodo, in realtà non avviene. C'è, per esempio, una politica di indemaniamento di terre, che è, diciamo, qualche cosa che preoccupa molto una parte degli eritrei, quelli che erano interessati a questo. E queste indemaniamenti di terre poi finivano dati in concessione ad avventurieri italiani, i quali talvolta le subaffittavano a coltivatori eritrei. Quindi, voglio dire, non c'era, da questo punto di vista, ci poteva essere solo preoccupazione, eccetera. E poi diciamo anche che durante questo periodo ci fu una mano pesante, una linea piuttosto brutale di risolvere dei problemi anche delicati di rapporti con le popolazioni africane, anche dovuto a un fatto che, come pensa Ghisalberti e la Capuzzo e i suoi allievi che hanno studiato molto questi problemi istituzionali dell'Africa italiana, e poi c'erano dei bandi, ma in realtà le leggi italiane che governavano questi territori non venivano pubblicate. Ogni tanto c'era un bando, ma non c'era la pubblicazione di questo. Quindi, a parte che poi non è che tutti gli eritrei andassero a vedere tutte queste cose, però voglio dire, ce n'era anche una relativa pubblicità. E si usò la mano pesante fino a che ci fu il celebre processo Livraghi, che adesso questa è un'altra storia. Quindi, se in questo periodo ci furono anche da parte di personalità eritree e di semplici eritrei dei malumori, e molti andarono anche a combattere con Menelik, si disse tradirono, in molti avevano anche delle buone ragioni per farlo, per la verità, o perlomeno diciamo che non gli erano state date buone ragioni per non farlo. Quindi direi che la situazione in Eritrea cambia con la fine dell'amministrazione militare, i quali, come, non perché i militari italiani, come dire, fossero particolarmente perversi, ma perché, voglio dire, lo è ancora tutt'oggi che le nostre forze armate sono ridotte come sono, ma c'è una certa mentalità chiusa, un po' da clero, diciamo, da clero in uniforme in ambiente militare. Per cui diciamo pure che il Ministero della Guerra e il Corpo di Stato Maggiore concepiva un po' la colonia eritrea come una cosa sua, un territorio suo, e quindi come avesse una priorità o addirittura talvolta sembra un'esclusiva. Ora questo, con la sconfitta di Ado, con tutto quello che segue, eccetera, poi arriva Martini e cambiano le cose. Cioè, non è che succedano rivoluzioni dalla mattina alla sera, però ci sono delle... Si cerca di mettere fine agli sprechi, si cerca di fare dell'avvaloramento, si cerca di... Ecco, però, Se poi noi andiamo a vedere la parte che il capitale ha in questo, intendo il capitale privato, e questa è un po' una storia che ritorna in tutta la nostra vicenda coloniale. Non voglio parlare della follia Rubattino perché penso che non ne valga la pena, qui per quanto sia molto indicativa. Ma se noi vediamo per esempio in Eritrea, l'Eritrea aveva del cotone. Per la verità non era un cotone di gran buona qualità. Il cotone egiziano era senz'altro migliore. Però voi sapete che mettendolo a coltura, facendo esperimenti, cioè investendo del capitale per migliorare la condizione, per migliorare la produzione, la crescita e la cultura, dico, si potevano ottenere risultati molto migliori. Ora, come al solito, questo serviva, per questo serviva del capitale. Ora, quando si cerca di fare questo, anche lì c'è un po' di paura di perderci, oppure, diciamo, di un certo timore a fare quelli che vengono chiamati gli investimenti a lungo termine. Cioè si preferiva un po' accaparrare quello che si poteva accaparrare, poi vedendo che la cosa non era poi così lucrosa, piantare tutto e andare via. Ora quindi in questa situazione, voi capite, accade lo stesso con l'oro. In Eritrea c'era l'oro, non era molto per la verità, costava molto invece estrarlo. Anche lì ci furono fatti dei tentativi e anche lì lo stesso copione. Se noi andiamo in Somalia, ci accorgiamo che ha un inizio, diciamo, completamente diverso. L'Eritrea ha un inizio militare e la Somalia ha un inizio invece, diciamo, capitalistico, in un certo senso sempre. La compagnia Filonardi, con un accordo con il governo italiano, amministra. Anche lì l'accordo è vantaggioso per la compagnia Filonardi. Cioè questi ricercano sempre una garanzia in modo da non perdere, in modo che se un domani le cose vanno male, comunque la compagnia non perde, come nel caso della Rubattino, quando si accorse di avere fatto un'assoluta follia, vendette allo Stato, facendo dei guadagni enormi, la Baia di Assab. E lo stesso poi avviene, c'è un intervallo in cui lo Stato prende a diretta, ma poi passa alla compagnia commerciale del Benadire ed è la stessa cosa. Un po' lo stesso copione noi abbiamo nella Libia pre-guerra italo-turca con il Banco di Roma. Quindi in questo delicato aspetto dell'avvoloramento dei territori, noi non possiamo dire che il capitale privato concorse in modo serio e fattivo. Per quanto riguarda, c'è un altro aspetto che vorrei cogliere, quello del personale coloniale. Ora, è vero, come dicevo prima, che non c'era tradizione, e sono completamente d'accordo con quegli autori, tra l'altro anche con quelle personalità, tra l'altro il ministro delle colonie Amendola, quando diceva che in realtà ciò che fa veramente il funzionario coloniale è l'esperienza, ma non tanto l'esperienza singola quanto un'esperienza di gruppo, cioè quindi una tradizione. E questa non poteva esserci, però è anche vero che è capitato che uomini che una preparazione del genere si andavano facendo o che avevano avuto una grande esperienza al riguardo poi non fossero utilizzati o fossero utilizzati tardi. E qui voglio citare due casi che mi sembrano grossi. Uno, il più importante, è quello dell'esploratore Gaetano Casati. Gaetano Casati sta 10 anni in Equatoria con Emin Pascia. È un capitano del Regio Esercito, ha partecipato alla guerra del 59 e alla guerra del 66, ha partecipato alla campagna contro il brigantaggio, è un esperto geografo ed ha una vocazione coloniale africana. Alla fine riesce a partire, chiesto da Gessi al capitano Manfredi Camperio della Società Commerciale di Milano, e parte. Bene, quando lui chiude la sua esperienza africana, perché tra l'altro è ridotto molto male, in condizioni di salute, e quindi sta per ritornare in Italia, riceve subito proposte dall'amministrazione coloniale tedesca dell'Africa orientale dagli inglesi. Lui rifiuta perché dice: vi ringrazio, devo curarmi e poi, voglio dire, aspetto proposte che vengano dal mio paese. Crispi subito gli fa una proposta, però lui sta appunto in male condizioni, ritorna in Italia, dopoché lo arruolano, diciamo, tra i funzionari coloniali, ed è il momento di mandarlo in Africa finalmente, dopo storie che non vi sto a raccontare, e gli viene proposto il commissariato di Cassala, che noi avevamo conquistato ai mahdisti. E allora c'è una risposta negativa e ipocrita di Barattieri, che è una cosa formidabile. Dice: bah, ma questo, dice, non so quanto possa capire di Eritrea, non c'è mai stato, c'è stato, non credo, ma comunque, insomma, poi mi pare che non stia bene. Dice: comunque tenetelo a casa e dategli il raddoppio dello stipendio. Ecco, questa è la raccomandazione che, quando viene sollecitato a prendere, silenzio, che Barattieri fa. Molto probabilmente si tratta di invidia, perché il capitano Casati all'epoca era un'autentica personalità internazionale, insomma, è noto e stimato. Ma purtroppo anche un uomo invece di tutt'altra pasta, Martini, uomo avveduto, intelligente, però forse un po' bisbetico, quando lì gli viene riproposto Casati, beh, lui dice: beh, in fondo non so, ci sono dei problemi burocratici, perché anche qui ci sono regole e regoline della burocrazia che strozzano, voglio dire, non viene concepita, ecco, dalla nostra burocrazia, e anche direi dalla mentalità dei politici, cioè dall'eccezionalità, cioè la persona fuori dalle regole, nel senso positivo, no, e quindi deve passare tutta l'altra fine. Quindi alla fine dice Martini: ma in fondo si tratta di un impiegato. Ecco, cioè, immaginate se a un certo punto un altro grande personalità, insomma, se Di Peters, per esempio, avessero detto a Berlino: ma in fondo si tratta di un impiegato. Insomma, ecco, non credo che questo sarebbe potuto accadere. Comunque, ecco, voglio dire, è interessante di Casati, perché dà un'idea di quest'uomo che ha una grande esperienza d'Africa, che cosa lui pensa dei rapporti interrazziali. Lui scrive nelle sue memorie: l'umanità è una, e uno è l'uomo, per quanto siano graduate le differenze etnografiche che hanno dato luogo a varietà di razze, ogni atto che tenta fuorviare da questo diritto di uguaglianza è un'opposizione alle leggi armoniche che regolano l'universo e vuole essere a tutta possa combattuto e soffocato. L'altro personaggio è un personaggio singolare che poi ritroveremo tra un po', ed è Guglielmo Chamarra, un giudice coloniale, che è giustamente citato nel lavoro di un altro allievo di Carlo Ghisalberti, Saraceno, su un suo articolo sulla magistratura coloniale italiana. Ora, il reclutamento dei magistrati coloniali in Italia avveniva all'epoca tra i membri della magistratura nazionale, con criteri che non si capivano più o meno, insomma. Certo, quello che veniva richiesto era una buone condizioni fisiche, salute, eccetera eccetera. Ebbene, lui già da studente universitario, Chamarra, approfondisce corsi di storia di politica coloniale e di diritto islamico. Nel 99 entra nella carriera giudiziaria e chiede, da allora in poi chiede continuamente di essere mandato in Africa, e non gli danno retta. Nel 1904 lui ha il diploma della scuola diplomatico consolare, oltre a essere un magistrato, il diploma della scuola diplomatico consolare di Roma, il diploma consolare dell'Università di Napoli, conoscenza della lingua e della letteratura giuridica araba, ok? che non è una cosa usuale in quei tempi per un magistrato italiano, acquisita all'Università di Napoli, certificato di frequenza dell'Istituto Orientale di Napoli, studi sull'organizzazione politica e giudiziaria dell'Impero Ottomano, nonché conoscenza della lingua francese. Bene, lui poi dovette andare in Libia per farsi notare, per farsi vedere, andò in vacanze in Libia, alla fine fu preso a benvolere con Libia, che lo segnalò a Roma, e alla fine fu esaudito e fu mandato lì. Ora, un altro aspetto interessante è quello dello status e della partecipazione dei sudditi all'amministrazione coloniale. E qui dobbiamo subito dire che c'è fin dall'inizio, in tutti gli autori, una e in tutte le personalità, piccole e grandi, del colonialismo italiano, una differenziazione che viene fatta tra l'Africa orientale e l'Africa settentrionale. La Libia è un discorso a parte, cioè voglio dire, questo discorso va sempre a, come dire, se così, a preferenza della Libia e a scapito. Addirittura nel secolo scorso tra Eritrea e Somalia veniva ancora fatta una graduatoria, questa volta a vantaggio dell'Eritrea e a svantaggio della Somalia, dicendo beh, questi somali sono proprio insomma ancora dei selvaggi, sono stati più o meno di barbari e cose eccetera, mentre invece gli eritrei eccetera eccetera. Ecco, comunque si tratta, sono ragionamenti che vengono fatti. Ora, devo dire che un aspetto importante c'è, ed è quello dell'Islam. È vissuto ovviamente ad un livello, se così posso dire, superiore nella Libia che non nella Somalia, no? Dove ci sono anche parecchie commistioni, o perlomeno c'erano, eccetera, eccetera. Mentre invece, questo in Libia ha anche una sua organizzazione, una sua istituzionalizzazione, poi dico nelle province dell'Impero Ottomano, dico quindi è la questione diversa. Ecco, quindi questo è un aspetto interessante. E detto questa differenza, voglio citare alcuni personaggi per dire un po' qual era. Ranieri Falcone al congresso coloniale della Smara del 1905 così si esprime: la civiltà, dice il cavalier Falcone, che è materiata di contatti umani, di eventi storici e di fasi economiche, appare come una lunga scala fitta di gradini. I nostri indigeni, i quali parlano così soavemente la dolcissima lingua del sì, sono in genere bene adatti a salirla. E poi arriva addirittura a dire una cosa che credo che sia un po' l'unico che dice, o tra pochissimi: l'azione del tempo e poi quella degli uomini, ai quali spetta di governare e di amministrare giustizia, finirà per togliere di mezzo ogni dualismo fra il diritto metropolitano e quello indigeno, mercé l'unificazione delle leggi. Ora Chamarra interviene al convegno nazionale coloniale per il dopoguerra delle colonie e lui è indignato per quanto noi accennavamo questa mattina, e cioè l'atteggiamento, cioè, punitivo si può capire, la Germania ha perso la guerra e gli leviamo le colonie, ma per tutto l'apparato propagandistico e menzognero che c'è dietro, e cioè la Germania è brutale, la Germania è una combinata di tutti i colori, la Germania non è più degna di amministrare le colonie. Questo fatto indigna Chamarra, non tanto perché lui sia un filo tedesco, ma per l'ipocrisia che c'è dietro tutto questo, perché il ragionamento era spartiamoci le colonie della Germania, non altro. E il Chamarra coglie questo aspetto e lo lega a un altro, cioè il ruolo avuto dai popoli coloniali durante la Prima Guerra Mondiale. Ora, non tanto nel caso italiano per la verità, ma se andiamo a vedere quello francese, beh, insomma, i francesi portarono in linea grandi unità di soldati coloniali africani, che pagarono un tributo altissimo nella Prima Guerra Mondiale. E poi, vabbè, occuparono la parte della Germania, della Ruhr, furono anche occupata da loro truppe coloniali, eccetera. Oh, quindi questi due elementi insieme, cioè Chamarra è un personaggio abbastanza focoso, è uno che si lascia trasportare da un entusiasmo però autentico che ha, E qui dice, a proposito, lui interviene sulla politica indigena e dice: si citano in vero esempi ed argomenti di innegabile valore per dimostrare l'assoluta incapacità degli indigeni a governarsi. Ora, a questo momento siamo nel 19, Chamarra è già un vecchio giudice coloniale che ha una grande esperienza soprattutto in Somalia, quindi è uno che sa quello che dice. Nonostante i disordini, le rivoluzioni e le razzie, la organizzazione delle loro comunità e villaggi è perfetta ed essi dimostrano di essere soddisfatti della maniera di vivere. I popoli, come gli individui, concepiscono la felicità a loro modo e la realizzano come possono, e nessuno ha il diritto di imporre loro una forma che egli ritenga migliore. Non è quindi base al principio di civilizzazione che, dopo l'esempio dato testé dai popoli civili, e lui allude ovviamente ai massacri della Prima Guerra Mondiale, del ritorno ai più barbari e selvaggi metodi di guerra, potrà più reclamarsi il diritto di annettere e governare i territori abitati da popoli primitivi. Tale diritto può essere mantenuto invece in nome di quell'abusata espressione che è la superiorità del bianco? Il concetto di superiorità è troppo vago e non ha in sé né il principio né la legittimità delle sue manifestazioni. La legittimità è presso i popoli, come presso i singoli, esso agisce come un prisma, deforma le cose e snatura il vero. Dopo aver vissuto con l'europeo nella stessa trincea, nella stessa officina, dopo essere stato portato a combattere, a vincere, a disprezzare altri europei, quale sarà quell'indigeno che vorrà più piegarsi ad un riconoscimento di inferiorità che nemmeno prima aveva mai sentito? Effetto immediato ed incontrastabile della guerra è stato invece la svalutazione dell'elemento bianco nell'ambiente indigeno, dopo che esso è venuto a sua volta ad esplorarci la sua essenziale ripercussione politica sul principio di dominazione. Ancor minor valore è riservato alla giustificazione dell'interesse nazionale dei paesi colonizzatori. Ciò potrà valere nelle egoistiche particolari competizioni, ma la dominazione basata su tale principio puramente e semplicemente si riannoda alla legge barbara della forza, ingigantita nel caso nostro dall'ausilio della scienza, di cui gli indigeni hanno visto le tristi applicazioni sui campi di battaglia. E non è così che può parlarsi di diritto e di libertà, ed offriremmo in tal modo ai popoli barbari un ben penoso esempio di civilizzazione. Quindi lui fa la sua proposta. La proposta è: la nostra azione sul continente nero, seppur condannabile, ha dato luogo a risultati che meritano di essere mantenuti e sempre più intensamente sviluppati nell'interesse dell'umanità in genere. Tale ad esempio l'organizzazione del commercio, lo sfruttamento minerario, le linee di navigazione, la costruzione di linee ferroviarie e di comunicazioni stradali, le iniziative industriali e quant'altro occorre alla messa in valore di regioni vergini ed inesplorate. È in questo immenso campo del lavoro che gli indigeni devono essere messi in condizione di parità con l'europeo, ed ogni risorsa deve concorrere al miglioramento del loro stesso paese. E quindi lui propone che un'organizzazione internazionale si interessi di questo problema e insieme vada questo. Certo, c'è dell'utopia in tutto questo, e c'è anche, se vogliamo, una non sempre rigorosa analisi, però voglio dire, ecco, questo era un uomo che non era un personaggio di terzo o quarto piano nel colonialismo italiano dell'epoca, e continuerà, poi sarà professore, lascerà la magistratura e sarà professore di storia e politica coloniale nelle università italiane. Ora, beh, qui ci sono altre cose, ma vedo che il tempo sta passando troppo. Ecco. Diciamo 5 minuti. Sì, allora voglio finire con... Vabbè, Cennallino, niente, lasciamo, finiamo con Amendola, finiamo in bellezza con Amendola. Ora, ecco, Amendola è un personaggio piuttosto straordinario, e secondo me in questa nostra rassegna, diciamo, in questa galoppata furiosa che ho fatto, a questo punto è emblematico, perché lui è l'ultimo ministro delle colonie dell'età liberale. Dopodiché ci sarà il fascismo. Lui è un ministro delle colonie nei due governi FACT. E per la verità lui non era uno che aveva nessuna vocazione alle colonie. Qualche anno prima, in un bel saggio scritto, che è una delle uniche cose che esistono su Amendola, ministro delle colonie, scritto dal mio maestro Renzo De Felice, e metteva proprio in risalto questo, che Lui 2 anni prima aveva chiesto la soppressione del Ministero delle Colonie, ma lui l'aveva chiesto perché in quel momento c'era un grande marasma nella politica coloniale italiana e non c'era alcuna linea, si seguiva giorno per giorno e si cercava di dare risposte affrettate alle situazioni emergenti, molto spesso contraddittorie e talvolta anche un po' ruffiane. E quindi dice, beh, a questo punto dico aboliamo, diamo tutto agli esteri e continuiamo. Perché non riconosceva in quel Ministero delle Colonie un soggetto, il soggetto idoneo a fare la politica coloniale, perché di fatto faceva confusione. Questo è, io credo, lo spirito della sua critica di allora. E anche io qui mi fermo alle considerazioni che riguardano le colonie, non ad altro, che pure c'è nel saggio di De Felice. Ora lui secondo me, possiamo vederlo non soltanto perché è l'ultimo, ma anche come quella che è la sintesi a quel punto del pensiero liberale riguardo le colonie, della linea politica che questi poi attuano e che avrebbero continuato, non ci fosse stato il fascismo, a portare avanti. Ora, ecco, lui alla Camera dei Deputati, il 22 giugno del 22, dice: in Libia siamo andati per ragioni politiche, non per velleità imperialistiche, e dobbiamo restarvi a rappresentare quel concetto di collaborazione e di associazione italo-araba col quale vi giunsero le nostre prime truppe di occupazione. Ecco, anche qui questo si può discutere, dice come non si è andato per velleità imperialistiche, allora come si è andato a fare per fare la collaborazione italo-araba? Beh, voglio dire, qui c'è un chiaro elemento di forzatura politica, però. Ripeto pertanto, a conclusione di queste mie dichiarazioni, quanto ebbi a dire al Senato: la via della pacificazione è aperta e se gli arabi, finora in dissenso con noi, vogliono sinceramente la pace, essi non hanno che da percorrerla lealmente. Ma quella è la via dell'ordine e della legalità, presuppone il rispetto dell'autorità costituita e l'impiego dei mezzi legali offerti dall'Italia con gli statuti per far conoscere gli statuti cui accennava anche Carlo e stamattina, con gli statuti per far conoscere in piena libertà i vari punti di vista circa gli interessi del Paese e la volontà delle popolazioni. Non abbiamo alcun interesse che ci porti a contrariare il legittimo e naturale bisogno di autonomia amministrativa e morale dei capi e delle popolazioni, ma deve essere ben chiaro che a nulla potremmo essere indotti con le armi in pugno e che noi rivendichiamo in qualsiasi momento il diritto, che è un dovere, di mantenere l'ordine, di tutelare le popolazioni amiche e soprattutto di imporre il rispetto della nostra autorità e della nostra bandiera. Quindi è un discorso di un ministro delle colonie, non è un discorso di Papà Natale. Dico però, lui è quello lì che nello stesso periodo in Libia, parlando a Tripoli, dice: finché voi vi ribellerete con le armi, il governo italiano sarà costretto a reprimere la ribellione con le armi, ma voi dovete sapere che il nostro intendimento è, l'intendimento del governo italiano è di fare sì che un giorno su questa terra non vi siano che cittadini italiani di Libia e d'Italia. Cioè, quindi porta avanti un discorso di tipo, diciamo, paritario, che poi vediamo quali sono anche le condizioni, però molto aperto. Direi poche settimane dopo, qualche mese dopo, il discorso di Federzoni a Tripoli sarà: obbedite e basta. Cioè, in sintesi, cioè si ha nel giro di pochi mesi, cioè non c'è nessuna apertura, nessuna condizione. È come fosse un generale che va di fronte alla sua brigata e gli dice: domani mattina vi voglio vedere tutti in assetto di guerra, arrivederci, e se ne va. Cioè dà ordini, non sta a sentire e non discute, no? Questo è abbastanza indicativo. La cosa interessante che noi abbiamo qui in Amendola è che, rispondendo al Senato del Regno il 18 luglio 22 sul discorso di bilancio, di presentazione del bilancio del Ministero delle Colonie da lui fatto, lui dice, parla il problema dei funzionari, no? dei funzionari coloniali, che bisogna prepararli bene, devono conoscere la lingua dei paesi, eccetera, eccetera. E allora poi dice, certo, ci avvantaggeremmo molto il giorno in cui potremmo ammettere nella nostra amministrazione coloniale funzionari nati nelle colonie. A quel punto uno potrebbe pensare, beh, si tratta di italiani nati alla Smara oppure a Tripoli, eccetera, e non è così. Dobbiamo rivolgere a tutte le nostre cure e fare in modo che ciò riesca possibile. Non dobbiamo però dissimularci la necessità, per siffatti funzionari, di un tirocino di studi che in questo momento nelle nostre colonie non è disponibile. Ecco, l'aspetto educativo scolastico sarà un aspetto sempre, abbastanza negativo. Vi sono certamente giovani appartenenti alle migliori famiglie libiche che, dimostratisi amici sicuri del nostro paese, potrebbero essere ottimi funzionari e servirebbero a stabilire dei contatti veramente vantaggiosi tra noi e le popolazioni. Dobbiamo dunque preoccuparci di assicurare loro un certo grado di cultura ed in tal senso occorrerà provvedere. Vabbè, poi qui dice, insomma, non mi accorgo che sto rubando troppo tempo e vorrei arrivare alle conclusioni. Cioè, io ovviamente ho tenuto conto, ho cercato di tener conto di quella che è la direzione prevalente in cui andava il pensiero coloniale e l'amministrazione delle colonie. Ovviamente ci sono anche tante altre opinioni, tanti interventi e anche altri esempi. Però l'impressione che si ha è che nella politica indigena dell'Italia coloniale, dell'Italia liberale, ci sia certamente un senso di superiorità nei confronti degli africani, ma è un senso di superiorità politico, è un senso di superiorità culturale politico. Non raggiunge né nella legislazione né nella organizzazione toni razzistici. Tanto è vero che sarà possibile per sudditi coloniali diventare cittadini italiani. Qui sarà un motu proprio del re e sarà possibile. È possibile, anche se non auspicato per la verità, il matrimonio. Martini, una volta di ritorno dalle vacanze in Italia, viene a sapere che una missionaria svedese della missione svedese in Eritrea ha sposato un eritreo. L'ira di Dio scrive al Ministero degli Esteri e dice: dovete dire al ministro del re di Svezia a Roma che queste cose non sono possibili, che io devo essere avvertito preventivamente di tutto, insomma. E poi dà una giustificazione che dice: noi non dobbiamo permettere questo, cioè, perché gli indigeni ridono di noi. In realtà questo non... il problema è una sorta di malinteso senso di prestigio, dove per la verità fa scadere il prestigio italiano agli occhi degli indigeni era il comportamento avuto in tante circostanze dove per esempio gli indigeni venivano truffati. Il primo sottosegretario fascista alle colonie, Giovanni Marchi, che andò agli inizi del 23 in Eritrea a compiere un viaggio, fa una relazione a Roma dove dice: ci sono 3 donne italiane sposate con sudditi eritrei. Il che significa, erano poche, ma vi assicuro che anche le donne italiane erano poche in Eritrea, quindi questo era possibile. Era possibile e non era, come dire, non c'era nessun ostacolo e non c'erano sanzioni. E certo non veniva incoraggiato. Per quanto riguarda i meticci, questo diventa un problema sociale molto grave, perché questi bambini il più delle volte non venivano riconosciuti. E allora, voglio dire, l'azione contro il meticciato che fa soprattutto la Chiesa, cioè noi abbiamo addirittura la Chiesa ha un atteggiamento che apparentemente può apparire contraddittorio, ma quando vengono programmate le leggi razziali, e a un certo punto, già nel 1937, quando c'è la legge contro il madamato, c'è un'esultanza da parte dei missionari, da parte della Chiesa per questo, eccetera. E qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un razzismo da parte della Chiesa, e non è vero, è una posizione morale che la Chiesa assume sulla questione e soprattutto di difesa di questi bambini. Tant'è vero che la Chiesa continua ad ordinare sacerdoti neri, no? Anche dopo le leggi razziali, e a inviarli a Roma talvolta sotto protezione di passaporto vaticano, affinché non possano avere fastidi dalle autorità italiane fasciste. Ecco, quindi lì è un altro, io voglio dire, ho messo tanta carne al fuoco. Quindi voglio dire, c'è senz'altro un senso di separazione, un senso di diversità, di distacco, quindi di superiorità politica, ma non è, come dire, non trova rispondenza nella legislazione in senso razzista, e ci sono diverse prove che dimostrano, non so, ufficiali superiori, cioè il fascismo si trovò ad avere un problema, per esempio qui c'era distanza da qualche reggimento di artiglieria tra Trento, Verona, eccetera, c'era un tenente colonnello eritreo che era nero come un tizzone d'inferno, ed era un tenente colonnello d'artiglieria del Regio Esercito Italiano, cittadino italiano, pluridecorato al valore, eccetera. E io ho visto i documenti e questi dicono: che facciamo con questo? Dico: questo è un cittadino italiano, è un ufficiale superiore del Regio Esercito. Allora alla fine fanno passare un po' di tempo, tornano in scamotaggio e lo mettono a riposo. No, perché è una situazione da un punto di vista, anche lì ci sono queste storie, la cosa è triste, però vedere certi giochi della burocrazia a volte anche su questo. Quindi voglio dire, è una situazione di questo tipo. Che evoluzione si vedeva per la Somalia e per l'Eritrea? Ma in realtà un miglioramento delle condizioni degli indigeni, a poco un'istruzione, una cosa, ma niente di eccezionale. Per la Libia invece si intravedeva un cammino più veloce, come dire, come più volte ha a dire Amendola, di collaborazione. E non dice assimilazione Amendola, perché dice, facciamo l'errore dei francesi, dice: cosa assimiliamo? Dice: questi sono musulmani, non possiamo assimilarli, hanno uno statuto personale, hanno tutta una serie di cose che finirebbero per essere in contrasto con la propria religione, con la propria società, con la propria cultura. E quindi è impossibile, no? E quindi ecco il motivo per cui lui parla di collaborazione, però il concetto è lo stesso in un certo senso. Dopo le cose cambieranno drasticamente. C'è un aspetto che sostanzialmente rimane uguale. Il colonialismo italiano tende ad avere sempre il controllo diretto, cioè il dominio diretto dei suoi territori. C'è un'eccezione in Somalia con il sultanato dei Migiurtini e il sultanato di Obbia. Di questo si incaricherà di risolvere il problema il quadrumvilo della rivoluzione fascista, Cesare De Vecchi De Valcismon, quando sarà governatore della Somalia, che eliminerà la questione annettendo i due. Ecco, ora, se a un certo punto la presenza coloniale ha lasciato aspetti positivi di eredità, questo è difficile dire, perché il discorso tende ad oscillare tra una sorta di bilancio d'azienda, no? Tante strade, tante cose, cioè, e un bilancio di tipo morale. Quindi è difficile rispondere. C'è un bel libro scritto da uno studioso americano, Betts, L'alba illusoria. L'alba illusoria è la promessa fatta dal colonialismo ai popoli coloniali. E cioè, noi vi portiamo la civiltà, noi vi coniughiamo con la modernità, con noi iniziate, no? Entrate nella modernità, fate eccetera eccetera. E dico, questo sogno, questa promessa fatta, dico, poi non è riuscita, per la verità, a mantenersi. Vero è che da quando questa promessa fu fatta fino a, diciamo, il momento in cui se si ha l'indipendenza, eccetera, eccetera, succedono tante di quelle cose nel mondo, è difficile. Si tratta, certo, l'impatto coloniale è per l'Africa anche il modo con cui l'Africa è entrato in contatto con la modernità. Questo io credo che non si possa escludere. I modi in cui questo è accaduto, secondo me, ci sono detti in buona parte anche da quello che abbiamo visto all'indomani dell'indipendenza. Scusatemi se sono stato troppo lungo. Ja, so lange will ich jetzt nicht reden nochmal. Ich will versuchen, ein paar Punkte zusammenzufassen auf Deutsch. Ich glaube schon, dass es für Ihnen gewünscht wird, jedenfalls im Moment. Herr Golia ist auch ausgegangen von der Frage der Gemeinsamkeiten, was wir heute nun schon häufiger getan haben, zwischen italienischen und deutschen Kolonialismus. Geht so weit zu sagen, dass beide als späte Nationalstaaten kein Erbe mit sich brachten, kein kolonialistisches, als sie in der Zeit des Hochkolonialismus eintraten, aber damit, sagt er, endet auch die Parallele. Die Differenz sei der Gesellschaften und des gesellschaftlichen Bedingtheiten, auch des Kolonialismus sei viel zu groß. Im Übrigen auch das Gewicht der beiden Nationalstaaten in der internationalen Politik vor 1914. Er hat ein weiteres Argument, das also auch sozusagen den, seiner Ansicht nach den Vergleich erschwert, dass der Kolonialismus in Italien eine sehr viel größere Bedeutung hatte, weil es eine längere Zeit natürlich Erfahrung des Kolonialismus gab und sehr viel mehr Menschen über Generationen hinweg in den Kolonialismus verwickelt waren, nicht nur politisch, sondern eben auch als Siedler oder in sonst einer Weise. Eben Imperialismus nicht nur ein außenpolitisches Problem für Italien darstellt, sondern gewissermaßen eine Kollektiverfahrung gewesen ist. Dieser Begriff habe ich jetzt aber selber eingeführt. Zweitens ist er dann, hat er betont, dass die Politik, nicht sozusagen die Kolonialpolitik, auch in ihrer Wirkung auf die indogene Bevölkerung in besonderer Weise betont werden müsse. Das ist auch sein eigentliches Thema ja gewesen. Die Reaktion der Afrikaner auf diese Politik, aber auch die Reaktion der Kolonialbeamten oder der Kolonialisten, der Imperialisten, die in Afrika selbst sind, auf die Erfahrungen, die sie in Afrika jeweils gemacht haben. Er hat das verschiedenen Beispielen eben analysiert und hat eben auch dann natürlich die sozusagen die Geschichtslegenden zurückgewiesen, die die befreiten kolonialen Völker nach dem Ende der Dekolonisierung oder am Ende der Dekolonisierung selbst entworfen haben, der jede Form von Kollaboration oder positive Reaktion gewissermaßen auf die kolonialistische Politik geleugnet wird. Hat das Beispiel gegeben, sehr eindrucksvoll fand, dass das so ähnlich war mit der italienischen Geschichtsschreibung des Risorgimento nach der nationalen Einigung, als man vorher immer nur den Feind gesehen hat. Ja, die sind gewissermaßen für ihn zwei Medaillen derselben Seite, das war die Penetrationspolitik, aber auch die Reaktion auf diese Politik und die Reaktion auch auf diejenigen, die gewissermaßen zu denen gerechnet werden, die diese Politik exekutiert haben. Dritter Punkt, fragte sich Herr Golia, warum nun es sinnvoll sei, nur den Kolonialismus des liberalen Italiens, also entschuldigung, bis 1922, bis zum Faschismus zu behandeln und die faschistische Ära wegzulassen. Er sagt, dass dies eben ein Prinzip. Der faschistische Kolonialismus seit 1922, hat am Schluss seines Referats eben noch sehr schöne Beispiele gegeben von dem ersten Kolonialminister Federzoni, Luigi Federzoni, der seine Politik erklärte, obedire, gehorchen, das ist alles, was die Völker, die kolonisierten, von Italien kolonisierten Völker müssten, und das entwickelt sich in dieser Phase eben auch so etwas erst wie ein Rassismus, wie immer man diesen deuten mag. Vorher gab es das nicht. Insofern ist die Kolonialpolitik in den Augen von Herrn Golia eine Phase und eine Sache für sich. Er hat das dann viertens versucht darzustellen, nun empirisch näher am Material, mit dem Beginn in Massawa 1885, Eroberung in Eritrea, seine erste Stufe von ihm interpretiert, die zunächst als reine Militärkolonie konzipiert war, jedoch dann in einer baldigen Entwicklung, wenn auch nur von Einzelnen oder kleinen Eliten natürlich, als auch als eine Aufgabe der Zivilisierung der Bevölkerung angesehen wurde. Er sprach dann vom doppelten Mandat, das man nun in Afrika gesehen hat. Zunächst also Regierung mit harter Hand, militärische Militärkolonie, immer von den Militärs auch gesehen als erste Stufe der Eroberung schon in den 80er Jahren Äthiopiens. Andererseits aber eben so etwas wie eine zivilisatorische Aufgabe. Das hat er dann fünftens erläutert an der Biografie einiger führender Kolonialbeamten. Gaetano Cassati, non mi ricordo proprio il prenome del Chamara. Guglielmo. Guglielmo. Die beide eine sozusagen breite orientalistische Ausbildung hatten, sehr viele verschiedene Aktivitäten hatten und von daher eine Einstellung auch gewonnen haben in der Darstellung von Herrn Golia, dass sie den Afrikanern eben nicht nur als Herren genähert haben, sondern zu einem bestimmten Verständnis der Eingeborenen gekommen sind. Jedenfalls gilt das immer und besonders für Libyen, was möglicherweise auch bestimmte Bedeutung natürlich hat von den Regionen her, die einerseits in Ostafrika und andererseits in Libyen verbreitet waren. Direkte Kontrolle, auch bei diesen Beamten, immer in den Kolonien gewünscht, aber gleichzeitig zivilisatorische Aufgabe, und das hat er nun mehrfach betont. Und vor allem dann, und das ist der wichtigste Punkt gewesen, bei Amendola, der letzte Kolonialminister des liberalen Italiens vor dem Faschismus gewesen ist, der eben sozusagen ein utopisches Ziel sicherlich auch gehabt hat, aus den Libyern Cittadini, italienische Bürger, zu machen, nicht im Sinne einer Assimilation, sondern in einer politischen Gleichstellung. Das also im Kontrast etwa zu dem, was Federzoni sagt, obedire e basta, und in den nur gehorchen, unterwerfen, unterordnen. Sozusagen dieses als liberales, kolonialistisches Programm von ihm vorgestellt, von den Anfängen sich entwickelnd bis hin, wie er sagt, dann eben gipfelnd in dem, was Amendola sagte, wobei Amendola selber sich dessen bewusst gewesen sei, dass die Struktur der tatsächlichen realen Kolonialherrschaft, wie sie auch sich in dem Ministerium, dem er vorstand, darstellte, nicht unbedingt dem entsprach, was diesen idealen Zielen ihm vorschwebte. Ja, das war dann auch die Conclusio schon eine Superiorità, eine Überlegenheit, selbstverständlich auch bei diesen Kolonialbeamten gefühlt wurde, dass aber doch eine Gleichstellung erwartet wurde. Er hat das dann noch an einigen kleinen Beispielen erläutert, dass zum Beispiel eben auch nicht von vornherein Heiratsverbote der einheimischen Bevölkerung es gegeben hat. Immerhin durchaus betont von ihm, dass es nicht eine Assimilation im Sinne der französischen Kolonialpolitik das Ziel gewesen sei, sondern eine zivilisatorische Anhebung der Bevölkerung und damit eine politische Gleichstellung auf die Dauer, die eben dann auch nicht ausschloss, dass sich die Völker, die Unterdrückten und der Kolonialherren auch mischen konnten, obwohl dieses vehemente soziale Probleme hervorgerufen hat. Er hat dann auch auf die faschistische Zeit verwiesen, in denen das ja dann in den Rassengesetzen 1936, die ja gleichzeitig, das sage ich in Klammern für die deutschen Teilnehmer zu, gleichzeitig antisemitische und kolonialistische Rassengesetze gewesen sind, zum Ausdruck gekommen ist. Ja, am Schluss fragt er, ob der nun sozusagen von diesem idealen Programm, das er vorgestellt hat, tatsächlich positive Aspekte des italienischen Kolonismus in Afrika festzustellen sei. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, war seine Antwort, das ist schwer zu beantworten.